A parte vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Amici, dal punto di vista dello show è sicuramente il numero uno, non c'è dubbio su questo, caro Parenzo. Anche ieri da Vespa ha dato il meglio di sé. No, da questo punto di vista, guarda, non lo batte nessuno, e una grande parte dei deputati, dei senatori del Partito Democratico dicono: forse abbiamo trovato il nostro Berlusconi. Renzi addirittura ieri ha citato Gerry Scotti. Ma l'hai seguito Vespa o no? David? No, non l'hai seguito. Non hai seguito niente. Figurati, ovviamente la voce di Parenzo è bassissima e non si sente assolutamente nulla. Ormai sono abituato che non mi arrabbio nemmeno più. Gerry Scotti che gli ha mandato un messaggio perché dice che vuole rinunciare al vitalizio e non sa come fare, povero Gerry Scotti. Gerry Scotti mi ha scritto un email su Twitter, un messaggio privato, un direct message, e mi ha scritto: io sono stato parlamentare per 5 anni. Lui è stato parlamentare dall'87 al 92. Io voglio rinunciare al vitalizio da parlamentare. Non lo voglio, non riesco a farlo. Tra promesse e inciuci elettorali, fosti eletto presidente dell'inabolibile macchina di sprechi provinciali che sfruttasti per creare questa immagine di te. E poi dice: beh, gli darò una mano a rinunciare a questo vitalizio, gli darò una mano. Facciata. Poi tu lo sai che ha coinvolto Renzo Piano, una follia totale. Renzo Piano deve fare il grande architetto, non si deve occupare delle scuole italiane, perché per quello bastano gli architetti normali, i geometri, eccetera. Non si deve occupare delle scuole italiane. Già deve fare il senatore a vita, ha i suoi progetti, eccetera. Non può dare consigli sulle scuole italiane. Tempo perso. Ma sentite il grande consiglio che ha dato a Renzi il signor Piano. Signor Piano, a proposito, genovesi, stiamo parlando sempre di genovesi. Abbiamo qui una signora genovese. Tra poco ve la presento. Piano, secondo Renzi, dice che le scuole devono sorgere intorno. Sentite. Oggi Renzo Piano mi spiegava: anche un po' di verde può far bello, e le scuole nuove dovrebbero crescere intorno a un cortile che abbia un albero nel mezzo. Cioè, delle immagini in cui non si fa le scuole come viene. Come te, raccomandati. E le capiedi arruffianati. Cioè, il grande consiglio di Renzo Piano, quale sarebbe il grande consiglio di Renzo Piano? Caro Parenzo, tu che ti sei scaldato per Renzo Piano, quale sarebbe il grande consiglio di Renzo Piano? Sarebbe quello di costruire una scuola dove c'è il verde. Ma tu hai capito qual è il consiglio di... Ma uno può ascoltare queste robe? Le può ascoltare o no? Mille proclami, che sorridente tu ci esclami. Vabbè, poi la roba del buffone, dai, sentiamo la roba del buffone. Queste promesse che noi abbiamo fatto, ci siamo dati una scadenza. Sì. Se il 27 maggio sta roba non arriva, allora vuol dire che Renzi è un buffone. Inutili applausi! Bravo Matteo! Grande Matteo! Oh, Minzolini dice una cosa giusta, Minzolini la dice giusta. La riforma del Senato, così come si presenta, non ve la spiego nemmeno, è una cagata pazzesca. Però ti dico con molta franchezza, mentre difendo la legge elettorale, sulla riforma del Senato, come l'avete presentata, dovrei citare Fantozzi, è una cagata pazzesca. Ecco, te lo dico con molta franchezza. A me non mi convince, lo dico francamente. Se avevi 100 punti per Fiorenza in 100 giorni, Ora ognuno la può pensare come vuole sulla questione della presentazione di Berlusconi. Berlusconi si presenta o no alle elezioni europee, non succederà, non succederà. Però in questo momento molti lo dicono così per fare casino. Allora Toti, che è il portavoce di Forza Italia, dice: una lesione della democrazia se Berlusconi non si può candidare alle europee. No, diciamolo che lo prescriverebbe la legge, caro Toti. Poi lasciamo perdere che Berlusconi lo dice perché insomma fa sempre comodo, e poi comunque gli piacerebbe avere il nome di Berlusconi in testa a tutte le liste, perché come sappiamo porta un sacco di voti. Il nostro partito è stato condannato con una sentenza che riteniamo ingiusta, ci sono molti ricorsi pendenti, a nostro avviso sarebbe una lesione della democrazia se Silvio Berlusconi non potesse guidare le liste dei moderati in questo paese. Arriviamo qui con l'ospite che è qui di fronte a me. Prima però, Parenzo, ci sei? Io ci sono, sì, anche prima c'ero. Sì, c'eri anche prima, certo. Ci sei e praticamente non ci sei. Sgarbi sulla questione della dama bianca. Stai zitto. Sgarbi alla dama bianca, i 24 kg di cocaina della dama bianca che fu con Berlusconi al G8. Senti che cosa dice Sgarbi. Ti devo dire la verità, che l'idea è che una persona così, e quindi insomma viene presa, messa dentro lo staff del Presidente del Consiglio, arriva in Canada, esce, c'è un Mario di Stato, un po' fa impressione, io devo dirlo. No, scusa, no, è stata, questo l'abbiamo già detto, staff, ma non era lo staff di Berlusconi, era evidentemente una amante di Berlusconi, cioè Berlusconi, io giudico la questione è questa, lui la portava per portarsela a letto, che è umanamente comprensibile, poi faceva parte dello staff della Polverì, con cui non andava a letto, forse, non è da escludere, perché anche la Polverì, quindi... Allora, siccome si andava a letto, che colpa ne ha? Non è che le ha fede. Quando che già partecipavi a tre. Cioè, dice forse è andato anche con la Polverini. Se la ride qui la signora De Martini, la signora De Martini. Allora, Sgarbi dice separazione delle carriere tra troie e ministre, che ovviamente non ha tutti i torti. Insomma, lui lo può dire adesso abbastanza chiaramente. Sgarbi è un po' libero da tutti, ha anche litigato con Berlusconi. Berlusconi ha fatto due errori. Il primo, immagine. Il secondo, che non ha perseguito la separazione delle carriere. Vuol dire che chi fa la troia non deve fare il ministro. Cioè sono due carriere diverse. Lui la diceva per i giudici, però... E siamo qui, 800 24 00 24. Popolo della radio, popolo della zanzara. Accanto a noi una persona molto, diciamo, come definirla? Vulcanica, è così, vulcanica. Un neuropsichiatra, parlamentare europeo, anzi membro del Parlamento europeo, Susi De Martini, Forza Italia, buonasera. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Genovesissima, direi. Senta, ma è vero, sì, ha ragione Sgarbi quando dice che bisogna fare una separazione delle carriere, che Berlusconi doveva fare una separazione delle carriere tra troie e ministre, ministri? Sì, però io non sono razzista e quindi dico che la stessa cosa deve essere fatta per gli uomini. Cioè, una ci sono separazione troie anche là delle carriere fra idioti e ministri. Vabbè, ma come si definiscono gli idioti? Perché con un quoziente anche... intellettivo. Io sono neuropsichiatra, ne ho refertati per 30 anni, ormai li do a occhio. E anche in Forza Italia ce ne sono parecchi, allora, secondo lei, gli idioti? Ma io adesso non stiamo parlando solo di Forza Italia, parliamo di sinistra, di destra, di centro. Vabbè, ma gli idioti, lei dice, che... ci sono dappertutto, no? Ma guardi, c'è stato un bellissimo libro che è scritto da Carlo Maria Cipolla, un famoso economista, che si chiama Allegro ma non troppo, consiglierei a tutti di leggerlo, dove con grafici, matematici, spiega che la percentuale degli imbecilli è la stessa in tutte le categorie, che è il 30%, da bidelli ai capi di Stato. Abbiamo anche visto anche Bush, che Secondo lei è un imbecille, secondo lei? Totale. Sta totale. Un imbecille totale. In Forza Italia chi è l'imbecille, il principe degli imbecilli, secondo lei? Ma io sono candidata per Forza Italia e vorrei avere qualche piccola chance di essere rieletta. Secondo lei le faccio qualche nome? Però lei dice anche noi abbiamo il nostro 30%. Sarà imbecille io, scusi. Anche tra di noi ci sarà il 30% di imbecilli. Lei mi sottovaluta, certo. No, per niente, assolutamente. Anche noi però abbiamo il nostro 30%. Per esempio la Merkel è un imbecille, secondo lei? No, la Merkel è lei che è neuropsichiatra. La Merkel è una narcisa pericolosa. Narcisa pericolosa. Perché ha il potere, la Frau Merkel, che ha reso questa Europa un'Europa del Kaiser. Cioè, perché del cazzo, lei... lo dico io, ma del Kaiser, ma nello stesso tempo del Kaiser c'è... Sì, perché lei ha questa visione imperialistica della Germania, per cui quello che non è riuscito a fare un signore coi baffetti, Hitler, che è quello che voleva, diciamo, soggiogare tutto il resto dell'Europa, lo sta facendo lei in chiave economica. Anche questo volere sempre aggregare all'Europa tutti questi paesi dell'est poverissimi, progetto egemonico, a cui noi diamo finanziamenti, no? Perché noi abbiamo 40% di giovani disoccupati, però vogliamo annettere l'Ucraina con 35 miliardi di debiti. Questa è una pazza narcisa pericolosa. Addirittura, scusi, una pazza narcisa pericolosa. Sì, ho detto. Sì. Ma senta, altro che culona, come diceva, quello era un complimento. Era un complimento alla culona inchiavabile. Sì, ma glielo disse, secondo lei? Sì, lo disse. Ah, io non lo so, non ero lì, si figuri, non conto nulla. Però vabbè, che c'entra, però. Sì. Non la... Io vado più su cose che sì. hanno un interesse per noi elettori. È sì. importante togliercela di torno, cioè, quindi fare contare di più alle prossime elezioni rispetto europee. Rispetto a Hitler è una professionista. Sì, perché più scientifica. Perché più Hitler scientifica. Aveva quella vena di follia. Invece lei è laureata in fisica. Questa è pericolosa molto di più. Neuropsichiatra numero uno, signora De Martini. Certo. La vorremmo noi di nuovo al Parlamento europeo, Parenzo. Diciamo la verità, è molto difficile. Beh, tutta la vita, anzi. Sarebbe da fare la campagna De Martini alla presidenza della commissione addirittura. De Martini no parti. Scusi un attimo, ma no, perché invece Martini, Berlusconi... Vogliamo... tanto non si capisce, Parenzo, forse non hai capito bene che non si sente niente. Allora, come mai invece Berlusconi appoggia le signore, per esempio Comi e Ronzulli e non lei? Mi dica, secondo lei, perché? Saranno bravissime. Dai, non faccia la spiritosa. Perché secondo lei? Ma anche Renzi, no? Mi sembra che abbia messo, ha detto, una schiera di ministre tutte giovani e belle. E quindi ma sono più belle che brave, per esempio. La signora Ronzulli è più bella che brava, secondo lei? Ma sarà bella e brava, no? Tutte e due le cose. Punto quello che io so è che sicuramente è diversamente meritevole. Cioè, rispetto che vuol dire a me. Diversamente meritevole? Diversamente meritevole vuol dire che paragonando i curriculum sul sito del Parlamento europeo, non c'è come paragone, lei sa, dice lei. Ma no, non ce l'ha messo proprio il curriculum, che peraltro è obbligatorio. Però metterlo. Si vuole ricandidare adesso, lo sa, si ricandiderà, sì. Ah beh, credo che ma come sia. Mai? Ma le candidature non le decidono le singole persone, le decide il partito. Il presidente Berlusconi ha detto che tutti i parlamentari uscenti saranno ricandidati, compresa io. E quindi alcuni magari saranno più appoggiati dal partito e altri meno, compresa io. Ancora a casa, Simo. Le zanzare di casa mia. Te lo dico da amico, fatti le cazzi tuoi. Sempre razzi tutta la vita. Io ancora sto ripensando a questa cosa di Piano e di Renzi, Parenzo, perché appare veramente incredibile. Cioè, le scuole devono sorgere intorno a un albero dove c'è verde. Ma tu ti rendi conto se noi c'è bisogno di Piano per farsi dare un consiglio del genere su come costruire le scuole italiane? C'è bisogno di Piano o no? Probabilmente non c'è bisogno di Piano. Ah, ecco, meno male. Però ha detto una banalità che nessuno ha applicato fino ad oggi nella costruzione. Ma non delle c'è scuole, bisogno di Renzo Piano come consigliere per dirci che le scuole vanno costruite dove c'è un albero, dove c'è il verde. Dai, è una follia. Ma nessuno lo ha fatto fino ad oggi. Ma chi però l'ha detto? Ma ci sono un sacco di scuole dove c'è verde in Italia. Dai, può su essere l'uovo di Colombo, perché vabbè, effettivamente sì, è l'uovo cosa di Colombo. Banale, certo, tu quando c'è fatto bisogno di leccare il culo a Renzo Piano, proprio non guardi in faccia a nessuno, Vabbè, abbiamo con noi. Tesoro mio, amore, non ho mai dico quel che penso. Sì, ma infatti. Stupidaggine, dico che è una stupidaggine. Devi stare zitto! Capito? Nel paragone Renzo Piano Razzi, vabbè, mi pare francamente eccessiva la scelta di Razzi. Va bene, abbiamo qui Susi De Martini, parlamentare europeo genovese. Forza Italia, ma insomma, eretica, diciamo così, eretica, dai. Sì. Molto eretica, beh, poi addirittura è stata Costorace, ha fatto una lista civica in appoggio a chi ha Burlando a un certo punto, insomma, una cosa complicata. Adesso è di Forza Italia. Ho vinto una causa contro Bruno Vespa. È una cosa incredibile, è una delle poche, credo, ad aver vinto una causa contro Bruno Vespa. Parenzo, la sapevi questa roba qui? Cioè, ma quanti soldi ha... cosa? Quanti soldi gli ha strappato a Bruneo? Allora, 30.000. 30.000 euro? Sì. E ho messo ma li ha presi proprio così euro sì, su... e ho ma ha fatto il bonifico fatto un signor Vespa? Ho fatto il signor Vespa, ho fatto un giardino a Celle Ligure e l'ho intitolato a Bruno Vespa perché le vespe in giardino stanno bene. Ma hai capito e la quindi storia? Ma che cosa? Perché cosa? Allora, io sono stata vice capostruttura dell'anno di presidenza italiano G8 e mi ero accorta che molti degli appalti erano irregolari. Quindi, da brava cittadina, ho fatto una regolare denuncia in procura. Vabbè, ma in Vespa, le spiego perché questa cosa mi ha procurato minacce di morte, tutto quello che può succedere a un cittadino normale che fa una denuncia. C'entra perché Vespa, nel suo libro, ne scrivono all'anno, quell'anno aveva scritto che del G8 di Genova si occupava una signora. Che ero io senza né professoressa niente, che dovevo occuparsi, udite udite, di sfilate di moda per le mogli dei capi di Stato, mi vede come sono vestita sempre uguale, e invece in realtà io mi occupavo degli appalti. Cioè, e lui diffamazione. Ha detto che questa, sì, diffamazione, che questa signora aveva creato confusione nella struttura, e lo credo, li avevo denunciati tutti. Ma hai capito? Cioè, ha strappato 30.000 euro a Vespa. E allora io ho fatto causa... Ha fatto causa. E poi Di Pietro di Forza Italia. Ma Di Pietro di Forza Italia, non esageriamo. No, io sono una persona, guardi, normale. Vabbè, comunque, neuropsichiatra. Sono un medico. Ci faccia un'analisi psichiatrica di Grillo. Di sì. Grillo. Vabbè, veloce. Grillo, io lo conosco da tanti anni, è anche un amico. Sì. Sono amica sua, di sua moglie, perché è genovese. Insomma, sì, tutto nasce a Genova. Allora? Abbiamo avuto il cardinale Bagnasco, Bertone, Renzo Piano, genovese, tutti. Secondo me è andato fuori di testa, lo dico da neuropsichiatra. Sì, adesso. Cioè, lei vedendolo ogni tanto, sì, da neuropsichiatra dice è andato fuori di gli testa. Direi sì. Difatti, l'unica frase che condivido con Renzi, che per il resto è un venditore di pentole usate, no, questo lei lo deve dire. Devo dire che quando gli ha detto esci dal blog, secondo me. Cioè, è uscito fuori di testa. Ormai. È uscito fuori di testa. È pazzo. Però, cioè, che cosa gli consiglierebbe da neuropsichiatra? Di uscire dal blog e di dire non ci gioco più. Ma medicinali? Ma secondo me, più farmaci. Una psicoterapia. Psicoterapia, sì, sì, una psicoterapia. E invece Renzi? Che farmaci. E invece da Renzi rimane nel suo delirio narcisistico. Pure lui. Però diverso, perché mentre Grillo è un narciso buono, sì, Renzi è molto più cattivo, l'abbiamo visto con Letta, quindi è un narciso distruttivo, lui vuole l'aggetto, gli altri, sì, e vuole poi distruggerlo. Credo che la frase Enrico stai sereno rimarrà nella storia, anche forse entrerà nei manuali di psichiatria, anzi aggiornerò i manuali. Cioè, sì, come doppie personalità o no? Sì, perché se voi guardate ad esempio il quadro meraviglioso di Salvador Dalì sul narciso, sì, uno lo guarda da lontano e dà l'immagine di un narciso baldanzoso, poi si avvicina e vede che la testa del quadro del narciso è un guscio d'uovo che si sta per rompere. Che cosa c'è di più fragile? Quindi Renzi è fragilissimo, è cattivo, vuole distruggere, ma poi è fragile. La prima difficoltà crollerà. Capito, Parenzo? Qui abbiamo top. Berlusconi a questo punto? Berlusconi? Berlusconi invece è un vero buono, è molto generoso. Ho capito, ma lei... No, dico la verità. Lui è stato, vabbè, ma qualche difetto da neuropsichiatra io lo vedrà, no? L'insicurezza. Secondo me il queste donne il seduttore seriale è un insicuro, mi scusi. È un seduttore seriale. Certo, è un insicuro, perché lui ha bisogno, e difatti lui era affezionatissimo. Anche un malato a di sua sesso, mamma. Anche malato di sesso, diciamo. Secondo me il problema, diciamo, è stato quando lui, poverino, questo lo dico con grande simpatia, gli aveva avuto queste tragedie, era morto una sorella, la mamma e una nipote nel poco tempo, e lui si è praticamente consolato con questa seduzione seriale. Quindi in realtà chi ne ha troppe non ha nessuno. Un seduttore seriale. Sì. E si può guarire con una donna, con la Pascale, secondo lei o no? Grazie a una donna si può guarire da questa seduzione seriale? Io ho conosciuto la Pascale e effettivamente mi ha colpito. Secondo me è molto intelligente, molto in gamba. È entrata un po' nel ruolo di Evita Peron. Addirittura. Secondo me lei adesso si crede. Si sente Evita Peron. Anche lei è una sorta di. Da neuropsichiatra, pure lei inquadra questa roba qui come una patologia. No, una che si sente Evita Peron. Secondo me lei è molto sveglia, è molto sana, è molto determinata e probabilmente anche la salvezza di Berlusconi, perché in realtà gli ha stoppato tutto il circo. Si sente Evita Peron. Beh, ma Evita Peron aveva sicuramente era servita Peron, se riguardate la storia, Evita Peron è quella che ha reso, diciamo, fatto ritornare a successo Peron. Cioè, voglio chiedere una cosa però fondamentale, caro Parenzo. Devi sapere che la signora De Martini è a favore, come il sottoscritto, degli OGM, ma per un motivo molto particolare. Ce lo vuole spiegare, signora De Martini? Sì, no, per... degli organismi geneticamente modificati, certo. Sì, siamo tutti organismi geneticamente modificati. Come tutti. Nel momento in cui ci sono stati dei matrimoni misti. Cioè la razza pura, cioè solo Hitler avrebbe voluto non OGM. Cioè siamo tutti certo, geneticamente modificati. Nel momento in cui ci sono stati dei matrimoni misti, ci sono sposati fra varie regioni o fra varie razze diverse, sono creati dei... E dunque perché lei dice non dobbiamo mangiare geneticamente modificati? Ma certo, se siamo ad esempio il cane che noi abbiamo in casa, il cane addomesticato, il cane per sua natura non è domestico, quindi sono stati selezionati delle razze, quindi sono stati modificati geneticamente degli animali che sono diventati dei cani. Dunque quelli domestici che sono contro gli OGM non devono rompere le scatole. Non devono rompere le scatole. E anche non avremmo i diabetici vivi, perché l'insulina ricombinante è stata creata modificando geneticamente un gene. Quindi tutto quello che non è come natura fa è modificato geneticamente. Quindi chi è contro gli OGM non capisce niente. Capito? È una cosa indegna la sua trasmissione. Venuta nel mio spazio. spazio sotto il salice. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. Segnalo che David Parenzo ha il coraggio di dire che la consulenza di Renzo Piano, sintetizzata ieri da Renzo, una scuola deve nascere intorno a un albero, è una cosa importante, una cosa significativa, capito? Vogliamo risentire questa cosa di Renzi, perché è una cosa che mi fa venire il sangue al cervello. Siccome si è consultato con Renzo Piano su come trasformare l'edilizia scolastica, su come salvare le scuole italiane, che per carità sono messe malissimo, sentite cosa ne è venuto fuori da questa conversazione con Piano. Oggi Renzo Piano mi spiegava: anche un po' di verde può far bello, e le scuole nuove dovrebbero crescere intorno a un cortile che abbia un albero nel mezzo. Cioè, delle immagini in cui non si fa le scuole come viene. Beh, siamo alla grande novità, eh? Siamo alla grandissima novità. La legge elettorale non la conoscono nemmeno i deputati. Le Iene inchiodano prima la Borletti Buitoni, scelta civica, che peraltro credo che sia anche viceministro o sottosegretario, una cosa di questo tipo. Écoutez, come si dice in francese, sentite. Per la coalizione, qual è la soglia di sbarramento? 8. No, per noi. No, 3 per noi, 3. Ma proprio qual è la soglia sotto la quale neanche la coalizione entra in Parlamento? 8. Senta, invece la soglia di sbarramento per i partiti che sono coalizzati? Attualmente è al 3%. Ah no, per i partiti singoli. No, coalizzati. Coalizzati, l'8. Sicura? Sì. E 4,5, insomma. Vabbè. Di Battista, quello che a un certo punto alla Camera, se vedeva una partita di pallone, ha chiesto scusa, sul tablet, stava vedendo un po' di calcio durante la discussione sulla legge elettorale. Però insomma può capitare, certo, se capita uno dei 5 Stelle bisogna rimarcarlo ancora di più. Una coalizione per entrare in Parlamento, che soglia deve superare? Ogni singolo partito della coalizione deve prendere il 4%, giusto? Singolo partito, ma dico la coalizione. Se non sbaglio il 12. C'è il 12 della coalizione, sì, ma è... Suggeritore, la sapeva, dai. Non la sapevo. Cioè non è difficile, ci sono gli schemi su tutti i giornali da settimane e settimane. Cioè, da settimane e settimane. Vabbè. La Polidori, Elena Polidori, Forza Italia, credo, Polidori, sentite. Qual è la soglia di sbarramento per le coalizioni nell'Italicum? Siamo all'8%, oppure al 12%. Per la coalizione? Sì, sì. Cioè 8-12? No. Allora, c'è l'8% se si è in coalizione, c'è il 12% se non si è in coalizione. Ne sono certa, sbaglia lei di certo. No, e invece la soglia di sbarramento dei partiti non coalizzati. Io ragazzi, quelli non coalizzati. 12, ve gliel'ho detto prima, è lei che sta sbagliando. Katia Polidori, non è come ho detto prima. Vabbè, TG3, dai. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli per TG3. E ascoltate cosa deve dire. Berlino apprezza il piano Renzi, siamo consapevoli che è un progetto ambizioso. Da domani tour del Premier in Europa, lunedì dalla Merkel. Banca Italia, debito ancora in salita. Piano lavoro che a Musso attacca, crea precarietà, squinzi Renzi motore di Formula 1, ma adesso cose concrete, pensioni, barette, esclude interventi. Toti, consigliere politico di Berlusconi, sarà candidato alle europee, questione di democrazia. Il PD, la legge Severino lo vieta, una condanna per frode fiscale. Via libera, nuove norme contro i cartelli farmaceutici dopo lo scandalo Roche-Novartis, tabelle per gli stupefacenti, torna la distinzione tra droghe pesanti e leggere. Nulla di fatto a Londra tra i ministri degli esteri russo e americano, domenica il referendum in Crimea, lo spettro di una rottura che avrà gravi conseguenze economiche. Ancora nessuna traccia del Boeing malese svanito nel nulla una settimana fa, le ipotesi più fantasiose dietro una pioggia di presunte rivelazioni. L'inchiesta sulle baby prostitute romane. Floriani ammette gli incontri ma cerca di giustificarsi. Credevo che la ragazza avesse 19 anni. Oh mamma mia, ci vuole la villanzella. Perché io devo mettere la testa a posto. Oh mamma mia, ci vuole la villanzella. Continuano ad arrivare le candidature per diventare fidanzati di Lara Comi. 31 anni, parlamentare europea di Forza Italia, la quale ha detto di essere single da 4 anni, l'altro giorno alla Zanzara, e ha detto: trovamelo tu un fidanzato e noi siamo qui a servirla. Adesso c'è Cruciani che c'ha una missione di trovarmi il fidanzato a questo punto. Sì, perché tutti single siete diventati all'improvviso, tutti single. Non è vero. Tutti single. Non è vero. Vabbè, lei ce la come, da quanto è single? Da 4 anni. Poi non ci manca, trattasi di avventuriere straniere, amori che si rivelano chimere, le puoi vedere sparire alla luce. Allora, vi ricordo la zanzara @radio24.it dove inviare curricula. Dovete specificare tutto però in questi curricula, Cioè, ma quanti ne sono arrivati per ora? Bene, sono arrivati una ventina, una trentina. Una ventina, età? Età giovani, molti giovani, molti giovani. Ma ventenni? Ventenni, anche ventenni per fortuna. Anche che ventenni. Maiali. Ma perché che maiali? Scusa, questi qua si vogliono fidanzare con la coppia, vogliono uscire con la coppia e maiali. Ma ti sembra normale? Cosa? Che questo gruppo di porcelloni, di giovani porcelli. Ma perché porcelloni? Scusa, spiegami. Perché funziona così, questi qui magari qualcuno l'aveva vista in televisione, qualcun altro sarà andato su Google, è andato a cercarsi le foto della deputata e allora? È andata a vedere come si e allora? Beh, ma una roba un po' da maiali, dai. Ma perché da maiali? Sentiamo il primo, Francesco, perché qualcuno le delle donne su internet, no. Una roba da guardoni. Qualcuno ha lasciato anche un messaggio. Qualcuno ma andate alle feste dell'Unità, andate alle feste del PDL a conoscere le ragazze, andate in discoteca, no? Che roba è? Dai, dai, senti Francesco, sentiamo Francesco, 25 anni, Padova, la tua città. Ma io ho colto l'occasione perché da un po' di tempo qui a lavoro il mio direttore insiste che devo trovarmi una ragazza e far sua famiglia. Lara è sicuramente una bella ragazza, abbiamo idee politiche piuttosto diverse, ma a me piace appunto il confronto scontro e poi sarebbe molto noioso avere a che fare con una persona con la quale condivido tutto. Penso che il mio stipendio abbastanza basso insieme al suo, che sicuramente è molto più alto del mio, ci permette magari a entrambi di vivere serenamente concedendoci anche i propri spazi. Quindi Lara, se è interessata, io sono disponibile. Adesso è un po' asettico questo messaggio, caro Francesco, 25 anni e poi mettiamo, cioè non c'hai un euro, non c'hai una lira e ti vuoi fidanzare con... Ma no, bisogna avere qualche denaro, ragazzi, su, un minimo. Io il mio stipendio è basso più quello suo, dai. Comunque vabbè, candidatura di Francesco. Sebastian, 21 anni, toscano, senti questo. Senti, questo è un altro incredibile. Io mi chiamo Sebastian, ho 21 anni e anche se sono giovane a me mi darebbero un monte le milf, no? E, essendo lei un gran milfone, cioè ora io sono Cruciani, però io sinceramente un'uscitina la farei, una cenetta, qualcosa di tranquillo, poi si vede chi viene, insomma. Quale uscitina? Qui stiamo parlando dei fidanzamenti e poi che è MILF? Quella c'ha 31 anni, le MILF, adesso è inutile che vi spiego l'acronimo, cosa significa, ma bisogna anche che abbiano, cioè, abbiano avuto figli, sono mother I like to, vabbè, lo sapete, no? Mother I like to, e fate voi con la F finale, dai. È una parola in inglese comunque. Roberto, Brescia, 31 anni, quella è la cosa che fa più seria, commerciante di macchine, che c'ha una cosa di auto usate, che c'ha un concessionario. Dai, su, Roberto, Brescia. Ci uniscono i valori politici, diciamo, mi piace dal punto di vista estetico e quindi uscirei volentieri con lei, almeno per una cena. Vabbè, insomma, ma non, bisogna essere un po' più, dai. Ma ti rendi conto? Ma cosa? Cosa? Ma è uno spaccato veramente della disperazione di un paese. Ma perché? Non ho capito perché. Senti, no, ma io sono veramente allarmato, mi dovrebbe chiedere al sociologo, nostro amico Ferrarotti, ma scusami, ma ti sembra normale che uno, per trovarsi una bella figa con cui fidanzarsi, senti questo, senti alla questo, radio, senti questo Matteo, 34 anni, il grande concorso della zanzara è questo: volete fidanzarvi con Lara Gommi, abbiamo la sua approvazione, come avete sentito, mandate i vostri curricula alla zanzara @radio24.it. europarlamentare europea, carina, insomma, potrebbe essere rieletta, un buon partito, Ciao, mi chiamo Matteo, 34 anni da Pavia, sono un allevatore di cavalli da corsa, sono un inventore e soprattutto sono un amante della natura. Sicuramente ti troverai molto bene con me, ti posso proporre un'infinità di esperienze, sicuramente tutte belle, anche qualcuna magari brutta, probabilmente. e sicuramente sono una persona che sta per te. Dico d'amico, fatti i cazzi tuoi. Beh, allora, avete ragione, mi sono frenato e non mi devo mai frenare su MILF. Giustamente mi dicono, come con tutto quello che dite, non dite cosa significa MILF. Mother, I like to fuck. Dolce amaro nota tu. Cioè, quelli, dice uno, sono fissato con le MILF, cioè quelli che vogliono trombare solo con le, con quelle un po' più mature, diciamo, no? Giusto, Parenzo? Sì, io non conoscevo il significato dell'acronimo, ma va bene, mi fido. Tanto stasera va così, su, dai, stasera va così. Riprendete la linea, stasera va così. Che dobbiamo fare, ragazzi? Aiutatemi voi, lancio un messaggio. Che devo fare con Parenzo? Quel poveraccio di Parenzo, che io gliel'ho detto due o tre volte per la strada, che lui è diventato il simbello del giornalismo. Invece prima era un giornalista serio. Sgarbi, 2000 calci nel culo a questo stato fascista. Mettiamo Sgarbone, va. Io, mia moglie, lavora perché è mia moglie. Quando una donna lavora in casa perché fa la madre, nessuno la paga. Ma se in pizzeria mia moglie fa una pizza, non le voglio dare la partita IVA. Deve lavorare, punto, e non pagare tasse. Mi sono rotto le palle di uno stato fascista che impedisce. Io e te siamo marito e moglie, tu fai una pizza, ti faccio 2000 euro. 2000 calci nel culo ti devo dare. Le zanzare, yeah, fanno male, ma non... Ruccio da Milano, buonasera, dica. Buonasera, io inizialmente volevo parlare della Mussolini, ma è una vicenda tanto triste, è meglio accantonarla. No, no, dimmi. Vorrei parlare di Renzi. Io sono originario di Castellammare di Stabia e lì abbiamo un sindaco che ha precorso un po' i tempi di Renzi. Tenga presente che nel 1988... No, ma che voleva dire sulla Mussolini? Non ho capito. Sulla Mussolini voglio dire che ha sempre decantato... le lodi del nonno, che aveva un comportamento un po' così libertino, e adesso se lo ritrova uno simile, se lo ritrova in casa, insomma, mi dispiace molto in realtà. Uno simile a chi? Scusa, uno simile come comportamento, diciamo, sessuale, che va a cercare ma che c'entra col nonno? Come? Scusi, che c'entra col nonno? Scusi, il nonno della Mussolini non era il duce? Beh sì, ma allora che c'entra questo? Che il comportamento che ha avuto il comportamento che ha avuto il marito. Il comportamento, eh? Il comportamento che ha avuto? Con la Petacci e con tante altre amanti che ha avuto durante il corso della sua vita. Ma mica era una minore la Petacci, posto che quelle accuse siano... Non so che non era minore, ma comunque era un comportamento, diciamo, moralmente... poco reprensibile. Ma chi l'ha detto? Ma quando mai? Cioè, aveva delle amanti Mussolini, allora? Vabbè, questo fa parte del nostro modo di essere. È un delitto? Non ho capito. È un delitto? No, non è che è un delitto, però fa parte del nostro modo di essere italiani. Si ricorda matrimonio all'italiana, divorzio all'italiana? Vabbè, cioè, lei sta siamo un po' ipocriti. Lei sta delirando. Andiamo in chiesa, ci facciamo la confessione e poi dopo è finito tutto. Tutto questo, no? Cosa c'entra con l'inchiesta sul marito della Mussolini? Me lo spiega? Ma cosa c'entra? C'entra nel senso che sono due comportamenti che lei avrebbe, mi dica un po'. No, ma chi? Ma quale? No. Quale comportamento? Quello di andare chi? Con la minorenne oppure di avere una relazione extraconiugale? Lei lo farebbe? Ma adesso cosa c'entra quello che farei io? Certamente con le minorenni no, se so che sono minorenni, ovviamente. Cioè il marito della, esatto, il marito della Mussolini. E comunque sono entrambi dei comportamenti tutt'altro che reprensibili. Ma chi l'ha detto? Ma è normale? Ma che c'entra? Ma mica è reato avere relazioni extraconiugali? Oh, ma stiamo scherzando? Non è reato, ma stiamo parlando di morale. Vabbè, la morale sulle relazioni extraconiugali la tenga a casa, La tenga a casa, capito? Quello fa parte del rapporto, per fortuna, tra due persone. Cioè, non è che viene giudicato, da un'entità superiore, Ci mancherebbe. Vabbè, però lasciamo stare questo. Io volevo parlare di una nota di colore, perché voi siete... No, aspetti un attimo, Renzo da Forlì. Renzo. Buonasera. Dica. Sono io? Sì. Fino a prova contraria a lei, sì. Buonasera, volevo parlare della Dama Bianca. Quando l'hanno fermata ha detto di essere stata ingannata, e credo fatto che sia vero. Cosa? Perché che è stata ingannata, perché lei probabilmente doveva uscire da un'uscita privilegiata, perché è arrivata con un trolley piena di roba, che mancava solo che quello fosse trasparente, perché non era nascosto per niente quello che aveva detto. Come ha fatto ad entrare, a portarla in aereo? Non lo so, certo, 24 kg, uno non si accorge di avere 24 kg nella sua borsa, mi sembra un po' bizzarro, però lei dice così, è la sua strategia difensiva, cosa vuole che le dica? Evidentemente lei sapeva già quando è arrivata che doveva... No, era una di quelle persone che magari... se ti andiamo io e lei in aeroporto ci tolgono anche le scarpe. E allora? Per passare. E allora lei aveva tanto di quella droga, avrà pur passato, dove l'ha passato quel trolley? Da dove è entrato? Visto no, che è rientrato sull'aereo. Cioè lei dice alla partenza? A Caracas, ecco. Ma non lo so questo. Evidentemente. Ma che fa l'investigatore lei? Non ho capito, che fa l'investigatore? Io non faccio l'investigatore, io mi domando perché se sono in aeroporto devo diventare, cioè mi va bene, che non dico che comunque, non sia fatta bene. Ho capito, perché avrebbero dovuto fregarla? A questo punto, perché avrebbero dovuto... Che lei si aspettava di uscire da un'uscita in cui non veniva controllata. Comunque, la cosa vergognosa è quello che ha scritto Saviano. Che col punto interrogativo ha detto è per questo che era nei voli con il cavaliere? Cioè questa è la vergogna, no, questa è la vergogna, dai. Io non so niente di cavaliere, perché a me del cavaliere non è che mi riguardi tanto, però a me mi sa tanto che se uno arriva con tanta droga ha una certa sicurezza di poter passare laddove non lo controllano. Vabbè, evidentemente. Questo ci pensano gli investigatori. Parenzo, che vuoi dire? Non ho capito, sempre se si sente, No, no, no, volevo dire questa illazione di Saviano, evidentemente, oltre a riferirsi al passato dell'amicizia tra i due, andrebbe verificata dalla magistratura. Però. Ammazza che intervento. Marco da Milano, buonasera Marco. Pronto, buonasera, mi sente? Sì, sì, ti sento. Ecco, allora volevo dire un paio di cose. Prima di tutto Sgarbi, che non vuole pagare le tasse, giusto? Sì. Perché non va in un altro paese? Cioè, non è che deve stare qui per forza. Vabbè, lui dice che lo Stato è ladro, che non bisognerebbe pagare le tasse perché lo Stato fa le paleoliche, che lo Stato fa le rotonde. È una provocazione. Poi c'è un po' di debiti col fisco perché non ha pagato forse l'IVA, sta cercando di mettere le cose a posto, non vuole pagare perché pensa di avere ragione, c'è un contenzioso fiscale aperto. Vedremo, insomma. Vedremo. No, volevo dire, volevo fare una domanda a lei che è molto intelligente, penso, no? Non lo so. Come mai in Germania abbiamo un presidente del Bayern Monaco che diciamo si è dimesso dopo che è stato giudicato in primo grado e dice che andrà in galera perché è giusto che paghi. Invece in Italia abbiamo Silvio Berlusconi che praticamente in Cassazione è stato condannato, lui... Sì. A parte che non si dimette, adesso vuoi comprare anche lo Stato. Diciamo che sono due cose un po' diverse, Cioè, sono due cose un po' diverse. E vuole anche candidarsi per l'Europa? No, no, ma gli danno i compiti quelli della Germania, perché sono superiori, cioè noi siamo proprio veramente Lei ha perfettamente ragione. Ha ragione al 100%. Diciamo che il sistema giudiziario tedesco è un po' più rapido. Il processo al presidente del Bayern Monaco si è concluso rapidamente. Evidentemente la fiducia nei confronti del fisco, del sistema giudiziario è molto più alta rispetto alla fiducia che abbiamo noi nel nostro sistema giudiziario, su questo non c'è dubbio. E poi fa impressione il fatto che il signor Önnes sia andato lì a dichiarare praticamente di essere colpevole, a fare dei discorsi anche sul modo di comportarsi nei confronti dello Stato, a chinare il capo e a finire in gattabuia. No, non me moleste moschito, non me moleste moschito, non me moleste moschito. Why don't you go home? No me moleste mosquito. Let me eat my burrito. No me moleste mosquito. Sì, sì. Gianni da Verona. Sì, buonasera. Dunque, la cosa principale per il discorso del, secondo il mio punto di vista, del signor marito della Mussolini è questo. Perché da finanziere è stato messo a fare il dirigente delle ferrovie dello Stato, magari prendendo... Ma questa 4... è roba vecchia, dai, su, questa è no, roba vecchia. Ma perché è roba vecchia? Perché è roba vecchia? Ma è roba vecchia, chi non messo, mi... Chi ha fatto le firme per metterlo lì a prendere 300-400 mila euro all'anno? C'era anche un conflitto di interessi grosso. No, ma è stata la moglie, ho capito, magari... Ma qualche anno fa, è successo. Io non lo so se ha avuto un ruolo la moglie. Mi capisce? Allora, questo è il problema. Perché l'Italia va male per queste cose. Perché deve essere messo a fare il dirigente una persona, a parte che non si sapeva, ma una persona che quando vede una ragazzina di 14 anni invece di prenderla per le orecchie praticamente e portarla a casa va a scoparla, cioè un animale del genere, capisci? Questo non è una persona, questo è un animale, questo andrebbe castrato. Ma chi andrebbe castrato? Non ho capito, chi andrebbe castrato? Il marito signor della Mussolini. Marito della Mussolini. Ma perché andrebbe castrato? Ma che cosa castrato dice? Castrato. Andrebbe castrato. Dopo 2-3 castrature, vedrai che in Italia le cose cambierebbero, hai capito? Però si potrebbe. Allora, lui sostiene, Gianni, lui sostiene una cosa. Il signor Floriani sostiene che è andato su bacheca incontri, una roba di questo tipo. A parte la sfiga di andare su bacheca incontri, vabbè, ma comunque, insomma, ognuno fa quello che vuole. Io su bacheca incontri non ci andrei mai. Su bacheca incontri per trovare uno. Prende un numero di telefono, caro Parenzo. Chiama, sì. Dice di non essersi reso conto che questa qua aveva 15-16 anni, pensava ne avesse 19, ci è andato 2-3 volte, punto, questo lui dice, non c'è nessun intermediario, nessuno gli ha detto, capito? Questa è la situazione, tu ci credi Parenzo, sì o no? Ma io già mi fa strano che uno vada in questi siti qui, però io non entro nel mezzo delle scelte sessuali delle persone. Certo è che in quella storia, tu non lo hai ricordato, alcuni dei clienti che sono andati lì e hanno visto le ragazzine in faccia, sì, hanno richiuso la porta e sono tornati a casa. Sì, questo è vero, detto, questo è vero. Questo cioè ricordato. Si sono resi conto, dici, si sono dopodiché resi conto. Io, no, io però la cosa che mi fa arrabbiare, cos'è, cos'è per che non ti dire fa altro, arrabbiare? Anzi incazzare, cosa? È che se, su 40 persone pressappoco indagate, sottoposte. Ma perché gli altri non si chiamano Floriani, non sono il marito della Mussolini, ecco. Ma di che ti stupisci? Questa di cosa è la ti più stupisci? Ipocrisia italiana, la più grande. A parte che è uscito il nome, no, il nome, comunque dicono che c'è anche il figlio di un deputato, Perché io no, adesso aspetta, calma, c'è il figlio di un deputato, c'è un dirigente della Banca d'Italia. Vabbè, capito? Ma queste sono tutte cose. No, sono tutte vabbè, cose. È più pruriginosa la cosa della Mussolini, no? È chiaro. No, è pruriginosa. Ti dà l'idea del sistema però. Perché ripeto, Libero, i tuoi amici del quotidiano Libero. Aridaglie con Libero. .it sì. Hanno fatto un sondaggio allora? Diretti dal direttore Beautiful Stone. A Beautiful Stone. Beautiful Stone. Come? Sì, vabbè, allora. Beautiful Stone. Sì. Hanno fatto un sondaggio. Chiedere che possiamo anche aggiornare perché ogni giorno ci vado per vedere com'è lì la situazione. Vabbè, un sondaggio che tu reputi vergognoso, sono i tabloid, come se fosse un tabloid inglese in cui succede di tutto, dai su, non ti stupire di nulla. Posso dire, non sei qualcuno abituato a mettere le mani nella merda, tu a mettere le mani nel fango, non ma sei abituato se, ma, sì, però, non sei abituato di, ti stupisci, esiste di, anche questo nella comunicazione, esiste anche questa roba qui, fermi tutti, col giornalismo. Fermi tutti, vabbè, mamma mia che palle questa storia, che c'entra quello col giornalismo, due coglioni. Oh, Luca Bizzarri è con noi, buonasera. Volevo chiedere una cosa, bacheca incontri è .it.com. Ma perché tu ci vai in questi siti, caro Luca? No, volevo vedere così per pura curiosità giornalistica, cioè, volevo capire se scusami Luca però non è un po' sfigato chi va per trovarsi una va su bachecaincontri.it.com e vai, che ne so, sei un dirigente delle Ferrovie dello Stato, che ne so, cioè usa un altri metodi, scopate una segretaria e che ti devo dire, o no? No, queste cose qua, secondo me, è sfigato sempre farti beccare, non farle. Quando ti fai beccare, poi fai la figura di merda. Poi, a parte il fatto di andare con le ragazzine, che quello oltre è sfigato, a volte pure un reato. Però io... No, io dico una cosa, è credibile secondo te che uno si presenta là e non capisce se uno ha 14-15 anni? No, non è credibile. Non è credibile, Non è credibile, come non è credibile presentarsi con un trolley con 24 kg di bonza in aeroporto. È finta, cioè gliel'hanno messi sicuro, non è possibile, non si può, non è credibile. A proposito, tu conosci la signora Gagliardi, hai conosciuto anche te nelle tue peregrinazioni femmine? Allora, primo non capisco perché tu mi abbia detto hai conosciuto anche la signora Gagliardi. E in quell'anche c'è tutto, capito? No, nel senso, si conosce, c'è una cosa di Luca Bizzarri che tra poco parleremo di questo meraviglioso programma che inizierà la settimana prossima, però, però non si vede mai con una fidanzata fissa. Allora io mi chiedo, ma perché non ti fidanzi? Ma che ti frega? Ma tu perché non ti fidanzi? Sarò frocio. Perché non c'è? Cioè, di tutti ci sono fidanzate, temporanee, fisse. Beh, nemmeno anche, non è che anche te non è che ti si vede. Esatto, proprio. Ma anch'io, infatti lo chiedo a te come se lo domandassi a me per cercare una risposta, capito? Io non esco mai, non vado alle feste, non giro, vado al parco col cane, tutto, faccio una vita da vecchio. Per cui, diciamo, per chi si vuole fidanzare con te si deve mettere l'anima in pace, è praticamente impossibile. Cioè. No, è possibile, bisogna avere molta pazienza. però è possibile, no? Io spero anche un giorno di farcela. Di fare figli? Avere... Ma è certo, ma se dai. L'hai fatta tu, io te voglio farla anch'io, che ho ragione. Se ce l'ha fatta Parenzo. No, Parenzo 2, bis. Parenzo un sacco. Ma poi alla fine Parenzo è quello che tromba più di tutti, perché sono i peggiori quelli lì, capito? Ecco, già Parenzo è uno da incontri, com'è bacheca incontri. Come Parenzo è uno che un giorno o l'altro si potrebbe, perché fa un po', capito, quello tutto precisino, quello che lui non ci va, capito? È uno di quelli che poi lo beccano, lui. Allora, ma che cos'è che è andato a fare? Ho letto da qualche parte così di passaggio, ho letto una roba di passaggio, ho visto pure qualche spot, ci abbiamo qualche spot? Abbiamo lo spot, abbiamo... mandatemi quello di Sorrentino prima, va. Sorrentino non ce l'abbiamo, no, l'ultimo allora. No, ce la l'abbiamo. Boldrini ci abbiamo. La Boldrini, però è meglio Baldelli per la Boldrini, vicepresidente della Camera. Sentiamo la Boldrini, ci sarà anche un imitatore della Boldrini, un imitatore di Napolitano, sarà meglio il nostro pure lì, sicuro, e un imitatore della Boldrini, eccolo qua, Boldrini. Pronta per il collegamento? Bentrovati. Adesso ci siamo, però faccia un sorriso, su, senta questa, il colmo per un falegname è avere la moglie scollata. Allora, questa è una storiella sessista e lesiva della figura della donna. Vabbè, si scherzava. Allora, quando la satira degenera, somiglia ad atti di violenza. Scusi, presidente. Presidente, sì. Ma chi lo fa? Chi lo fa? Lo fa Paolo, e devi vederlo perché gli scatta abbiamo notato che la dottoressa Boldrini ha questo scatto del labbro inferiore sinistro quando parla. sì, si vede bene. Ogni tanto gli parte, no? Il sopracciglio sempre piangente, poi ogni tanto questo scatto del labbro inferiore sinistro, e allora Paolo lo fa molto bene, fa ridere. No, fa bene il labbro così, però secondo me la voce dovete ingaggiare. Ma la voce è difficile da fare, per una lagna così, come si fa a fare quella lagna terrificante? È proprio complicato, è troppo lagnosa. Allora, ha studiato anni per essere così noiosa. Io so che il giudizio della signora di Bizzarri sul presidente della Camera, non so se ti puoi esprimere sulla Boldrini, è piuttosto lapidario, direi, no? Come la definiresti, no, la signora Boldrini quando se ne esce sulle donne e la pubblicità? Dimmi su un antovere, no, sulle donne e pubblicità. La cosa peggiore è la ricerca, è quando c'è la disgrazia. Io non la sopporto quando c'è la disgrazia e lei va sul campo. Quella è una roba che io non sopporto, né da lei né da tutti gli altri politici. Sai, questa roba di farsi vedere lì vicino alle vittime, una cosa che insopportabile. Lo fanno tutti, però. Ma lei c'ha sta faccia quando... Contrita, no? Contrita. Sì, c'ha la faccia contrita, con le foto con i bambini denutriti, con lei con la faccia contrita. È una roba che io non sopporto, lo trovo insopportabile. Senti, ma se dovessi scegliere di andare a cena fuori tra lei e Borghezio, con chi andresti? Ma con Borghezio tutta la vita, ma figurati. Poi ti dirò di più, al minuto... 3 o 4 di jazz del programma che faremo, sì, c'è Borghezione. No! E cosa fa? C'è Borghezione intervistato, perché noi faremo una gara tra le 3 macro regioni italiane, sì, nord, sì, centro, sì, e sud, per capire su chi investire, quindi ci siamo fatti dire da varie persone quali sono i confini del nord, del centro e del sud. Bah. E naturalmente Borghezione a jazz, beh, questa è la novità assoluta, sì, anche sì, Borghezione, sì, a jazz. Vabbè, Borghezione. Sì, sì, sì, sì. Dopo ci sono un po' di zanzariferi nel primo minuto, perché c'è Sgarbi, c'è Borghezio, un po' di citazioni. Poi ti faccio sentire dopo le 8 cosa ha combinato Borghezio per noi con il CNEL. Perché si sono arrabbiati molto quelli del CNEL, i sindacalisti. Non la persona intercettata. La persona intercettata da Sgarbi è un numero uno assoluto. Tra l'altro, quelli del CNEL siamo ormai talmente identificati con quelli che fanno le imitazioni, che i dipendenti del CNEL, ma non solo, quello. Pensavo fosse un'imitazione di Sgarbi, di Borghezio, una cosa pazzesca. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Non vi abbandonerò mai. La minaccia di Emilio Fede alla Zanzara, a Cruciani e Parenzo. Parenzo in collegamento da Napoli, non so dove, lo spazio. No, da Napoli, sono in collegamento da un'azienda. Mamma mia, che palle. Da un'azienda? L'azienda di cosa? Quale azienda? Ma chi se ne frega, che azienda è? Una delle più importanti aziende italiane, a Caivano, a pochi chilometri da Napoli, si chiama Arbont & Blaine. Dove? a Caivano. Sì, Caivano, l'ho capito. Vabbè, un'azienda, che cosa ci fai? La devi fare il collegamento per Telese per è l'azienda che si chiama Armont & Blaine, quella del Bassotto, per intenderci. Ah, Armont & Blaine, sì, sì, che buona marchetta. Stai a fare una marchetta, sicura, Armont & Blaine. Sono qui con l'imprenditore. Sì, che vuole l'imprenditore? Socio di Confindustria, peraltro dovresti. Vabbè, ma quello ce ne fottiamo. Bene, invece noi parliamo con Luca Bizzarri di Jazz, che è molto più interessante, questo programma che andrà in onda da domenica, con cui non è molto più interessante. Forse Parenzo ci vuole parlare della situazione del lavoro in Italia. Secondo me c'è un discorso da fare. Qual è il discorso da fare, Luca? No, nel senso, sicuramente è un discorso da fare. A me piace molto Parenzo anche quando parla della situazione di Pompei. Devo dire che è un argomento che io trovo interessantissimo. Bravissimo, bravo. Senti, Luca, ma invece ritorniamoci al sovrano. Sei renziano? Portiamo un po' di sapore e cultura. Leggiamo ad esempio il nome della rosa. Tu sei renziano? Leggere dei passaggi del nome o della Divina Commedia, ad esempio, no? Che so, Corvizio legge Dante. Stupendo. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. È arrivata lei, quella che costruisce i busti. Beh, giustamente si è fatta rifare il busto del marito. Ma che cosa vuoi? Cioè, perché? Cioè, si è fatta rifare il busto, gli hanno rubato e se l'è fatto lì dopo un po', si è rotto i coglioni di questi ladri. Che adesso, non io non penso che il tema del busto sia un tema che riguardi le organizzazioni internazionali, l'ONU, no. Ban Ki-moon, eccetera. No. Questa garbata signora che compiange il marito e di questo... quello è normale, allora cosa vuol dire? Non si capisce perché ogni volta che gli si fa notare che il suddetto almirante era un fascista, si incazza. Ma beh, certo che si incazza, perché tu lo fai così, col dito puntato, così come se fosse, era fascista. Beh, allora era fascista. È proprio rincoglionito forte lei, Ma molto rincoglionito. Luca Bizzarri, voglio capire subito una cosa, non voglio capire niente, ma tu vuoi partecipare al contest per fidanzarti con Lara Comi o non è il tuo tipo, se è Comi? Ma sai che quando ho sentito parlare del contest sono andato a vedere, perché non ce l'avevo proprio bene, e devo dire che la signorina insomma ha dei, non so dal vivo com'è, questo mi devi ragguagliare tu, come spesso facciamo in privato io e te, insomma devi ragguagliarmi un po'. No, è una bella ragazza un po' fredda, così un po' fredda, non particolarmente femmina, diciamo, non particolarmente femmina. A te piacciono femmine? Ti piacciono femmine? A me piacciono tutte in generale, però guarda, mi stanno arrivando innanzitutto delle candidature a fidanzarsi con te, di persone che sono su Twitter dappertutto. Mi voglio fidanzare con Bizzarri, eccetera. Beh, però... scrivi allegare foto. È una cosa pazzesca. Per me il punto di vista estetico è molto importante. Senti, Luca, una persona superficiale. Ma tu è possibile che prima o poi tornate a condurre le Iene, o è una cosa impossibile? No, credo sia una cosa assolutamente impossibile. Ma me l'hanno chiesto? Credo che ci sia stato un momento in cui insomma l'azienda pensava a una possibile nostro ritorno, però come dire, secondo me poi è come nelle coppie, i minestroni riscaldati non funzionano. Potreste condurre Radio Belva? Ma che c'entra Radio Belva? Ma io Radio Belva l'avrei condotta solo per salvarvi il culo a voi due. Mi sarei sacrificato al vostro posto. Ma mai più Iene per quale motivo? Perché per la tua nota amicizia con il suo ideatore? Davidino, come lo chiama Ricci, Davidino. Davidino, no. Perché lo chiama Davidino Ricci? Perché è un suo adepto, perché Parenti ha cominciato con Ricci, per cui Ricci ha una forma quasi molto paternale. Ma non lo chiama Davidino per un altro motivo, dai, lo chiama Davidino così per dire, vabbè, Davidino, il bambino Davide Parenti, dai. Tu dici che lo fa per prenderlo per il culo perché sei maligno, invece Antonio, che è una persona competente, scevra da ogni malignità, lo fa perché per affetto concreto, reale. Vabbè, ma voi non tornate, non è solo questo di minestre riscaldate, perché non andate d'accordo con Parenti, dai, su, cioè, questa è la realtà. Cioè. Ma no, poi loro, insomma, mi sembra che non abbiano nessun bisogno di noi né noi di loro. Abbiamo fatto un pezzo di strada insieme lungo di 10 anni. Ma è giusto che vanno a Canale 5, come dice Parenti, oppure sarebbe sbagliato? Dice, vogliamo essere promossi o no? Secondo me loro dovrebbero, cioè, Davidino dovrebbe andare a Canale 5 con una cosa nuova, però, perché sennò è il rischio veramente di fare due programmi molto simili, cioè Striscia e Iene sullo stesso canale, sarebbe concreto. Quello insomma, non si può nascondere dietro un dito. Iene e Striscia si somigliano molto come programma. Per cui no alle Iene a Canale 5, perché, ma... No, non alle Iene, o le Iene al posto di Striscia, però insomma è una situazione che vedo molto complicata, perché, perché comunque, ma poi io credo che non so quanto porterebbe di buono alle Iene a passare a Canale 5, perché un programma giustamente bello come le Iene, fatto bene, però di denuncia, così andare sulla rete Ammiraglia non credo che gli porterebbe poi chissà quanti vantaggi. Secondo me loro hanno un feudo e devono difendere quello. Senti Luca, ma diciamo la verità, Parenti e Ricci è come parlare, che ne so, di Maradona, Ricci, e dall'altra parte, che ne so, cioè Bruscolotti? No. Parenti è uno bravo nel suo campo, Però detto su Radio 24. Che stronzo che sei. Cioè detto ufficialmente, dici. Cioè, però il paragone non si può fare, cioè siamo su un altro pianeta o no? Uno, come dire, uno ha insegnato il mestiere all'altro, per cui chiaramente si parla di un maestro e di un allievo. Poi è possibile anche che però non l'ha superato, però non l'ha superato ancora. Ma guarda, io conosco molto bene tutti e due. Ricci è una persona veramente impressionante, cioè uno che ha una intelligenza, come dire, Davide è uno scaltro, Parenti è uno molto scaltro, molto, però Ricci, cazzo, fa un po' paura. Da che punto di vista fa paura? Fa paura perché è uno intelligente, perché uno che se per caso dice una cosa più intelligente di quella che ha detto lui se ne accorge. E questo è come dire, passa la tua idea e non la sua. E questo è dimostrazione di un'ulteriore intelligenza. Certo, è una cosa che succede estremamente raramente, però quando succede, cazzo, lui se ne accorge. Parenzo. Parenzo, ma neanche io no. Senti, Luca, ci vuoi dare dei consigli per le coppie quando sono un po' scoppiate, quando sono un po' in crisi? Ma sa lui? Fa un kit di sopravvivenza, no, di coppie, di uomo e donna, anche coppie artistiche, tipo io. Voi siete un po' in crisi? Ma no, in crisi, così ogni tanto ci mandiamo a fare in culo, non ci sopportiamo. Qual è il kit di sopravvivenza? Cioè, cosa bisogna fare? Innanzitutto una cosa che spero voi facciate è fare vite completamente separate e diverse, cioè non vedersi in altro posto che sul posto di questo lavoro. Questo succede, però non basta, questo forse, non basta. Ma di la verità, la coppia sta scoppiando da quando lui ha una famiglia nuova, nuovi bambini, è così. Cioè anche a te è successo. I loro tempi. Anche a voi è successo. Tu dici che è geloso. No, è che tu, Davide, probabilmente adesso avrai cambiato le tue giornate, proprio parlo di tempo, di concretezza, capito? Non puoi più dedicare abbastanza tempo al lavoro, dai molte cose per scontate, dopo un po'. Giustamente Giuseppe si cazza, però è normale. È normale, anche voi avete passato queste cose. Sì, assolutamente sì. Vabbè. Senti, quando possiamo... Paolo è molto più talentuoso di Parenzo, però. Sì, cioè è più bravo, dici tu. Va bene, senti, ti volevo chiedere una cosa, ma tu Renzi lo voteresti? Io ho votato alle primarie. Hai votato alle primarie? Quando ha perso. Quando ha perso. Quando le ha perse. E adesso stavolta che era chiaro che l'avrebbe vinta, no, io sono genuano per cui tengo sempre per i perdenti, questa volta che era chiaro che l'avrebbe vinta e non sono andato a votare, e adesso voterei per disperazione voteresti Renzi, però sì, perché chi cazzo di altro voti? Che ne so, io effettivamente ma la Boschi ti piace per esempio? Ma che carina, non lo so, però anche lì tu che hai l'avrai vista dal vivo? No, non l'ho vista dal vivo. No, perché quello è il problema. Ormai con Photoshop si fa tutto. Non sai mai come sono. Però, per esempio, lei ha attaccato Lucci perché dice che è stato sgradevole. Ma tu lo conosci da una vita, Lucci? Ma come si fa ad attaccare Lucci? Ma la stronzata galattica. Enrico è così. E poi scusa, l'ha attaccato perché gli ha detto che è una bella figa. Cioè, ma lei ha fatto là i membri del Parlamento, ma lo fa con tutti, dai, su. Ma no, a parte che la battuta sui membri del Parlamento l'hanno fatta a Cicciolina 15 anni fa e nessuno ha detto niente. Non capisco perché per Cicciolina hanno usato un metro diverso che per la Boschi. Perché la signora era del perché settore, la signora, diciamo. Dica Parenzo. No, dica perché che fai? Hai un problema con Cicciolina? Meno rispetto a Cicciolina di Maria Elena Boschi. No, tutt'altro, ma la signora. Cioè, scusa, per la nostra cultura, per la nostra cultura e per l'Italia ha fatto molto più la signora Cicciolina. Di più, ma voglio semplicemente dire che la signora veniva da quel ramo lì, diciamo. Eh beh, ma quindi, che c'entra? E allora? Non si era può... di quel settore, quindi diciamo era... Posso fare le battutine ironiche? Era no, non era una battuta, era una constatazione in quel caso. Cioè, no, proprio... no, gli dicevano quando si entra in aula si alzano i membri del Parlamento, tu, eh? Dai. Stessa battuta che Lucci ha fatto alla volta. Ma già si che c'è una giuria presieduta da Andy Luotto, avete ripescato Andy Luotto? Andy Luotto è un genio. Ah, una cosa pazzesca. Un attimo solo che mettiamo Borghezio, ti faccio sentire Borghezio. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Borghezio e il CNEL. È nato un casino pazzesco, eh? I sindacalisti del CNEL furibondi con il portavoce del presidente del CNEL. Tutto nasce l'altro giorno con Mario Borghezio, il vero Borghezio, questi pensavano fosse finto. Becca il centralino del CNEL e parla non con il presidente ma con il portavoce del presidente Gironi. Guarda oltre i monti, non permettere al tiranno di accecarmi. Pronto? Buonasera, sono Gironi. Pronto? Portavoce del presidente, chi è? Ah, buonasera, senta, sono l'eurodeputato Borghezio. Buonasera, io non onorevole. So se ha... Buonasera, ha ascoltato anche lei la conferenza stampa del presidente Renzi? Sì. E queste notizie, ecco, io ho una buona conoscenza del CNEL e perché mi sono sempre interessato degli enti, diciamo sì. Così di Stato, eccetera, sì. E volevo sapere come avverrà la cosa. Avete già avuto notizia? State no, già preparando no, i pacchi? Notizia diretta no, perché c'è, come dire, una certa poca buona creanza nel fare le cose senza neanche avvertire prima. Senza dubbi né ripensamenti. Ecco il crescendo rossiniano di Borghezio. Gli 80 dipendenti del CNEL o li paghi qui o li paghi da un'altra parte, sempre pagarli li devi. Continuano sempre a fare un cazzo anche da un'altra parte. Esattamente quello. Poi il ho capito. La questione. Vabbè, della e allora ci siamo resi conto che di un altro capitolo incredibile del buco pazzesco dei misteri dei ministeri e di tutto quello che viene previsto in questa carta costituzionale piena di enti, di sigle di cui il cittadino non riesce a raccapezzarsi, che non si sa anche bene che cavolo servano. Tutto per conclusione. Io non so come non si vergognino questi qui che prendono questi 80 stipendi che non servono assolutamente a niente. Ecco, questo pirla qua di Paperopoli adesso si è deciso in ritardo, doveva essere fatto 50 anni fa. Era stata una grande stronzata dei padri costituzionali. Questa è la verità. Il CNEL non serve a un cazzo! A un cazzo! A un cazzo! No! Cioè io vi posso giurare su quello che ho di più caro che non c'è nulla di preparato. A un certo punto è impazzito. Cioè, a un certo punto è impazzito con questo qua Gironi, che poi si è reso conto che non era in diretta, perché mi hanno raccontato oggi che c'erano, mi hanno raccontato delle persone che c'era qualcuno che gli faceva segno no non parlare. E i sindacalisti hanno, siccome questo signore poi ha detto esattamente questo, cioè questi non fanno un cazzo e purtroppo bisognerà ricorrogarli da un'altra parte, i sindacalisti hanno scritto una lettera al presidente, a Marzano, dicendo un comportamento vergognoso, le frasi che ha detto questo signore. Vabbè, che vuoi fare? Luca, grazie. Grazie. Sai che cosa volevo tirarmi le ire di Parenzo? Cioè? Chiaro. Mi fa impressione la frase che molto spesso si sente quando si parla di dipendenti statali. Questi 80... prima o poi li devi ricollocare. Non capisco perché tanta lavora in una fabbrica di scarpe di in mezzo alla strada, invece se lavorano al CNEL li devi ricollocare. Questa è una roba che io non ho mai compreso. Ma io su questo sono d'accordo con te. Però. Ah, meno male, è una sorpresa. No, ma secondo te, quando un ente statale va chiuso, questi quali devono essere licenziati? Perché quella funzione non serve più e non c'è bisogno. Quindi anche i dipendenti del Partito Democratico. Quindi anche, ma quello, su quello non c'è dubbio, io premesso che sono a favore del finanziamento pubblico ai partiti. Vabbè, ma lascia bene, stai allargando. Il problema fondamentale è questo. L'ho detto mille volte. Luca l'ha detto chiaramente. Quando chiude una piccola impresa, anche media, con 30-40 dipendenti, nessuno se ne occupa. Guarda, quando 40-80 del CNL, io per carità non ho nulla contro questi qua, non ho niente. No, il CNEL, non il CNL. No, CNEL, sì, lo so, lascia bene, lo so. L'altro è il Comitato di Liberazione Nazionale. Lo so, adesso mi devi fare la botta di cultura, dai. Ciao Luca, ciao, a presto, ciao ragazzi. concerto. Ma la zanzara è come una droga, quando non c'è ti manca. Dai becco su di me, ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Simona da Roma. Buonasera, Trusani. Buonasera, buonasera, dica. Buonasera, io sono una dipendente del CNEL. Sì. Di cui molto si parla in questi due giorni, sì, prima con sì. l'onorevole Borghezio e il nostro illustre portavoce del presidente, sì. e oggi quando lei poco fa ha detto che appunto i sindacalisti si sono molto molto arrabbiati e ho qui davanti le lettere che sono state sì. mandate dai sindacalisti sì, al presidente sì, Marzano del CNEL che per l'intervista che in realtà non era un'intervista, veramente veramente molto incazzata, ma non sono incazzata con l'onorevole Borghezio che conosciamo ampiamente, voglio dire, sono incazzata col portavoce del presidente perché voglio dire, se io fossi stato il presidente avrei revocato in due minuti l'incarico che questo signore sì. Ha al CNEL, perché non conosce il CNEL nonostante vi lavori da 10 anni. Che cosa ha detto, scusi, cosa ha detto? Ha detto una serie di stronzate come quelle che leggete nella lettera. La prima stronzata è stato il fatto che noi come dipendenti sì. assorbiamo l'80% del bilancio del CNEL, ma magari assorbissimo l'80% del bilancio, perché io mi sarei arricchita nei 13 anni in cui ho lavorato. Ma cosa fa lei al CNEL, signora? Lavorata, io sono laureata con 110 lode alla LUIS di Roma, ho vinto un concorso pubblico, ma questo che c'entra? I dipendenti del Partito Democratico, che finito il Partito Democratico possono essere licenziati. Io sono vinto. No, non possono essere licenziati, pubblico. Hanno il coso, hanno la cassa integrazione. Hanno la cassa integrazione e tutto. Cassa integrazione, ma voi cosa avete detto? Se il CNEL ha finito la sua funzione, i dipendenti hanno finito la sua funzione, io sono vincitrice di concorso pubblico. No, mia cara signora, lavorare perché sono 13 signora, anni Simona, e mezzo che io mi faccio un mazzo quanto ma nessuno dice niente e quindi non tollero che un Borghezio, un Gironi o un Cruciani o chi sì, per voi sì. dica che io mi devo vergognare per ma avere chi ha detto? In questi ma anni. Chi ha detto che lei si deve vergognare? Io non ho mai detto che lei si deve vergognare. L'ha detto Borghezio. Ma lasci Borghezio perdere Borghezio, a parte che no. Si dovrebbero vergognare per aver rubato lo stipendio negli ultimi 50 anni. Allora, cara Simona, io non rispondo di quello che dice, io non rispondo di quello che dice Borghezio. Io dico semplicemente una cosa, che il CNEL è totalmente inutile, secondo me. Non dico che lei fa un lavoro inutile. Io né dico che lei ha rubato lo stipendio. Lei ha fatto un concorso per il CNEL. Lei ha fatto un concorso per il CNEL e lavora al CNEL e sono sicuro che si fa un mazzo così. Purtroppo per lei, quello per cui lavora è un ente, a mio parere, ma non solo, a mio parere, totalmente, magari poteva essere utile nel 48, nel 50, nel 52, ma è un ente totalmente inutile. La società si è trasformata, sono stati fatti degli errori. Però la differenza, ma lasci perdere, proprio per cui io, questa è una sua opinione. Certo, è la mia opinione. La voce elettrice del CNEL, ma scusi Simona, la vera differenza lo sa qual è? Lo sa qual è la vera differenza? È che lei, ma lo dico non con odio nei suoi confronti, né con disprezzo nei suoi confronti. Lo dico che rispetto a un lavoratore privato di una piccola azienda privata che quando l'azienda va male e chiude resta in mezzo a una strada spesso senza protezioni, lei invece, se il CNEL chiuderà e quando chiuderà tra un anno e mezzo, verrà ricollocata nello Stato. Ma tutti i colleghi contro tutti gli statali, certo. Per quello. Certo, come allora, tutti gli statali. Una storica come la nostra, la cancrena dell'Italia siano il Senato e il CNEL, ci può stare, ci sta. Ma non è detto che la cancrena, ma chi lo dice? Va bene, mentre il ventre molle andiamola a cercare in tutte le società misto pubblico e private che sono attorno agli enti locali e andiamo a vedere. Anche quello. Primo. Dopodiché lo vogliamo demonizzare, demonizziamolo, ma cortesemente abbiate rispetto per il lavoratore. Perché ma questo parli con Gironi, parli. Non assorbe l'80% del bilancio. Guardi, nemmeno 16 come dicono i sindacati, molto di più, perché fanno dei calcoli sbagliati anche i sindacati, non si preoccupi, perché non mettono dentro un sacco di voci, fanno calcoli sbagliati. Io guadagno guadagno esattamente quanto un collega del Ministero del Lavoro. Vabbè, ma quello non c'entra niente. Io dico che lei abbia il coraggio di dire che è privilegiata rispetto ad altri lavoratori. Privilegiata rispetto ad altri. Io non so, non mi sento una privilegiata rispetto al lavoratore privata. Però lo è. Il contratto è diverso rispetto al lavoratore privato. Contratto da privilegiata. Contratto da privilegiata. Concorso e avendo il nostro ordinamento italiano. Non sto dicendo che lei è una ladra che va cacciata a calci nel culo. Scusi, Simona, non sto dicendo questo. Sto dicendo che lei è privilegiata rispetto ad altri perché ha il cuscinetto per cui nessuno la può cacciare. Ha capito o no? Cruzzani, nessuno. Io questo l'ho capito benissimo. E allora basta. Quello che io le dico è che sono stata veramente indignata nel sentire le parole che sono state dette dall'onorevole Borghezio, ma ancor di più dall'incapacità di quello che dovrebbe essere l'esperto della comunicazione, l'esperto del credo, aver revocato l'incarico nel giro di 5 minuti. Perché ha detto una serie di falsità e non si è dissociato formalmente dalle stronzate che ha detto Borghezio. Cioè ha dato ragione a Borghezio, dice lei? Assolutamente sì, perché nel momento in cui Borghezio diceva che non facevamo un cazzo lì e non faremo un cazzo dall'altra parte, che ci dovevamo vergognare di aver rubato negli ultimi 50 anni, il portavoce del CNEL avrebbe dovuto rispondere: questa è una sua opinione, mi dissocio. Vabbè, quello pensava di parlare anche, pensava di parlare anche privatamente con Borghezio, questo bisogna dirlo. Anche se si tratta sempre di un europarlamentare, tu pure ti sei chiacchierata con un europarlamentare che si chiama Borghezio, ma da che stiamo a parlare? No, ma io questo stiamo parlando. Ho capito, però ripeto, Gironi è l'unico che rischia in realtà di perdere il lavoro perché se chiudono anche ma lo dovrebbe avere già perso stamattina. Vabbè, allora fate una prova. Come la penso io di che cos'è il lavoro, la serietà e il rispetto di un'istituzione. Vabbè, grazie signora Simona, grazie Ernesto, buonasera. Sempre da Roma, Ernesto. Pronto Cruciani, mi sente? Oh, caro Ernesto, come stai? Io bene, voi come state lì? Beh, ce la caviamo. Senta, ma a me con sto CNEL mi si sono gonfiate le gonadi. Addirittura. Io volevo cambiare discorso. Sì, volevo darvi un rilievo che nessuno ha fatto. C'è una notizia oggi su tutti i giornali che la moglie di Renzi si è messa in aspettativa da lei insegnante, si è messa in aspettativa per stare vicino al marito a Roma. Perché ha seguito il consiglio che gli ha dato Licia Ronzulli, europarlamentare di Forza Italia, qualche giorno fa, ha detto bisogna segnare il territorio. Ma c'è stata una trasmissione ieri, l'invasione barbarica, dove c'era la Elena Boschi. Quando è apparso sul mega screen, sul mega schermo, l'immagine di Renzi, si è illanguidita, si è proprio illuminata, si è capito proprio che questa è una donna innamoratissima di Renzi, e quindi la moglie adesso lei insegue questi vado a vedere quelle sequenze, insegue questi pettegolezzi. Quasi ha dovuto contenere un orgasmo in diretta. Addirittura. Proprio si è languidita tutto. È una cosa incredibile. Andate a vedere la registrazione dell'invasione barbarica. Vabbè, andremo a vedere. Ernesto, che voleva dire? Concludendo, io volevo dire una cosa, non c'entro in quello. Il mio intervento mi ero prenotato con un'altra cosa. Bisogna fare un partito forza Renzi, perché Renzi non è di destra e non è di sinistra. E Renzi è basta. Lei deve fare il presidente, Cruciani. Io faccio il vicepresidente e Parenzo farà l'autista e segretario. Facciamo fare qualcosa con Parenzo. Non posso fare l'autista perché non ho la patente. Ciao Ernesto, ciao. Incursione della Zanzara a Radio Padania. Che Pellegrin, conduttore di Radio Padania, considera una specie di sguattero di mio schiavo, ma invece è un ottimo professionista, chiama gli amici di Radio Padania, si finge un ascoltatore omosessuale e fa sbroccare Pellegrin. Furio, mi perdoni, c'è l'omofobia. Ve lo dico ancora un'ultima cosa. Lei tanto critica spesso, no? Perché sento la vostra trasmissione, critica quelli della Zanzara, però loro almeno difendono i diritti dei gay, vuole anche questo, capito? Quindi è inutile parlare male degli altri. Allora, d'accordo. Va bene, Furio, ci siamo capiti, non è il caso. Questo probabilmente non è neanche un gay, è una persona stupida. Quindi, quando poi viene a parlare, a difendere quelli della Zanzara, tu devi andare ad ascoltare la Zanzara, è veloce anche, muoviti. Non stare a sentire me, via, vai via, via. Non sopporto, basta. Ho la mia età, c'ho il colesterolo, c'ho di tutto. E non posso più sopportare questa gente qua, basta, sono stufo. Ascoltate la Zanzara, siete in tanti, siete la maggioranza, siete dalla parte del padrone, dalla parte del più forte, dalla parte del potente. Andate là, via, via. Come dicono a Milano, Andersen. Il secondo giorno. Lei è fatto apposta per Parenzo e Cruciani, per il ciociaro Cruciani e per David Parenzo. Lei ha quella testa lì, lei non si permette di ascoltare me, perché io non faccio parte di quella contrada. Io sono di un'altra razza. I suoi ragionamenti sono per quella trasmissione lì. La sua quoziente di intelligenza è per quella trasmissione lì. La sua preparazione è per quella trasmissione lì. Il suo approccio alla politica è per quella trasmissione lì. E allora ascolta la Zanzara, tanto siete in tanti. Siete la maggioranza, siete quelli che comandano, siete dalla parte del padrone. A Pellegrin, t'abbiamo fregato. T'abbiamo fregato, controlla. Metti qualche filtro. Ci sentiamo tra un attimo, dai. Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Questi due disgraziati pitocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Tutta la notte e dormi in un tombino. C'è l'aria nel letto che mi graffia tutto. Cosa ti devo fare? Allora, non so se hai visto Libero oggi, prima pagina, caro Parenzo, questa storia incredibile che è scoppiata alla Zanzara quando tu non eri ancora alla Zanzara, 2009, che coinvolge i fratelli Bassanini. Franco Bassanini è uno degli uomini più potenti oggi in Italia, presidente della Cassa Depositi e Prestiti, è stato ministro, eccetera. A un certo punto, una sera, alla Zanzara, 2009, chiama il fratello Giorgio Bassanini, il quale dice, quando era ministro mio fratello, tra i due non corre buon sangue, ha fatto dei voli di Stato per i cazzi suoi, cioè ha portato i parenti, eccetera, eccetera. Risentiamo un attimo, 2009, Giorgio, provincia di Genova, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, semplicissimo, sono fratello di un ex ministro, il quale viaggiava regolarmente da Roma per venire a passare il Natale nella zona di Varese col volo di Stato, e già che c'era caricava un altro fratello che abitava a Roma. Quindi usava i voli di Stato non per cose istituzionali, ma semplicemente per venire a passare il Natale in famiglia. Quindi vede che siamo. Ed era sotto il governo Prodi. Quindi. Si può sapere quale ministro era? Cioè chi è suo fratello sostanzialmente? Bassanini. Volare. Oh. Qualche minuto dopo chiamiamo Franco Bassanini, chiama lui, non mi ricordo, anzi, chiama lui al centralino e non lo richiamiamo perché stava ascoltando. Incredibile. Franco Bassanini chiama e ci dice: riconosce suo fratello? Io riconosco esattamente la voce di mio fratello, quindi potrei dire che è sicuramente lui. Sono in grado di smentire in maniera radicale. Non ho mai usato, sono stato ministro o sottosegretario alla presidenza per 5 anni. Non ho mai usato, ho usato rarissimamente voli di Stato, sempre per missioni istituzionali. Non ho mai portato nessun parente sull'aereo di Stato, non ho mai portato amici sull'aereo di Stato, penso che questo possa essere facilmente verificato. Le prego naturalmente di mandarmi la registrazione della trasmissione, perché ovviamente querelerò mio fratello, perché si tratta di diffamazione bella e buona. Ma tutti i sogni nell'alba. Beh, devo dire la verità. Allora, Franco Bassanini chiese 250.000 euro di danni a Giorgio Bassanini, processo in sede civile, ovviamente. Questo processo si è concluso praticamente qualche settimana fa, alla fine dell'anno. E lo sai cosa è venuto fuori da questo processo, caro Parenzo? No. Non hai letto i giornali oggi, ma questo... No, non ho letto Libero. Lo do per protesta. Libero è il primo giornale che devi leggere la mattina? L'ho letto, no, oggi per protesta non l'ho letto, dopo la campagna contro Mussolini. Ma vai... Io leggo due giorni, i primi due giorni che leggo sono il primo Libero, il secondo il Fatto Quotidiano. No, è un giornale molto bello e divertente. Perché spesso da oggi il contrario, spesso primo Fatto Quotidiano, secondo Libero. Sono gli unici due che si possono leggere, diciamo la verità. Gli altri sono cose che ci sono ovunque. Allora, oggi si apprende che Giorgio Bassanini ha vinto la causa, cioè dopo vari riscontri è stato dimostrato quello che lui ha detto, cioè i voli di Stato utilizzati con familiari, eccetera, eccetera. È stato costretto a pagare Franco Bassanini, presidente attualmente della Cassa Depositi e Prestiti, pure un risarcimento per la causa, 4.000-4.500 euro, adesso non mi ricordo, forse anche di più, 6.000. Oh, oh, oh. Cantare. Oh, oh, oh. Ottima trasmissione, sempre la migliore. No, dell'Utri. Quando era al governo presi le stesse misure di Renzi, ma ci sputarono sopra. Così Prodi stasera, cioè quelle sul cuneo fiscale, 7 miliardi e mezzo. Volare. Oh. Baby Squillo Floriani, ho incontrato la ragazza, non sapevo fosse minorenne. Francesco da Bergamo. Pronto? Buonasera, sì, Cruciani. Dica, dica. Allora, sono contentissimo che avete accettato il mio consiglio che la domenica mandate, che il sabato mandate le repliche, così mi fate compagnia mentre torno a casa dal lavoro. Vai. Poi, seconda cosa, promuovo una trasmissione televisiva tra lei, Parenzo e Mazzoli. Vabbè, io, Parenzo e Mazzoli, mi sembra un'ipotesi praticamente Mazzoli impossibile. Impossibile perché Parenzo non vorrebbe, questo è il punto. Cioè, Parenzo è allergico. È un permenista. È allergico alle persone. Fate guerra e buttate merda. Siete epici. Vabbè, allora? Comunque, secondo me il problema grosso non è che uno va con le squille o non va con le squille. Il problema grosso è quanto male ha fatto questa persona, oltre che alla propria famiglia, anche a delle ragazzine. No? Le ragazzine erano, come dire, seppur 14enni, 15enni, consenzienti e consapevoli di quello che facevano. Adesso non diciamo esatto, cazzate. Però dai, io da uomo di 40 anni le dico che mi vergognerei profondamente di me stesso, anche se oggi le vediamo su Facebook che si presentano in maniera indecente. Io mi domando, ma dov'è la famiglia di queste ragazze? E come fa un uomo a distruggere la propria famiglia e infangarla in questo modo? Questo appartiene al mondo della... Della psicologia del signor Floriani, che oggi viene intercettato dal Messaggero, che fa appostare un cronista sotto casa della Mussolini e incrocia Floriani con i figli, eccetera, eccetera, che gli fa il così, no? Col dito in bocca, non posso parlare, ho la bocca chiusa perché ci sono i figli. Devo dire che si sfiora quasi la molestia, per carità, fanno il loro mestiere, però insomma, va bene Francesco, grazie. Fabio da Milano, dai. Fabio? Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Niente, la volevo riprendere perché lei prima ha detto che è una tristezza andare su bacheca.it. No, io non ho detto che è una tristezza, ho detto che un professionista affermato dirige, per carità, poi ognuno può fare quello che vuole. Per me è una tristezza. Io non andrei così facilmente su uno che è un dirigente delle Ferrovie dello Stato, marito di una senatrice, di una persona importante, che va su bacheca.com per trombare. E dai, andiamo, ma su, guardi, dai. Non voglio difendere nessuno, però secondo me non è tanto una questione di opportunità, è una questione di scelta. Magari una persona preferisce non avere complicazioni, non avere alcun tipo di problema. Ma complicazioni, guardi, ci sono modi, io conosco gente che ti può procurare quello che vuoi. Cioè, portati due russe in albergo di 40 anni. Cioè, fai quello che ti pare, ma non metterti nei guai in questo modo con le bacche, non sai chi incontri, se è andata così poi, perché non sappiamo. Cioè, ma oggi si può fare, cioè un professionista con i soldi può fare quello che vuole. Cioè, se si vuole procurare del sesso e vuole tradire, vuole avere relazioni extra coniugali, può fare veramente quello che vuole, cioè in modo assolutamente anonimo, cioè non c'è bisogno di mettersi bacheca.it, il telefonino, le cose. Ma di che parliamo? Allora, innanzitutto mi sembra strano che voi attacchiate una cosa di questo tipo, visto che voi stesso promuovete la liberalizzazione delle case chiuse. No, questo che c'entra, scusi? Condivide. È un altro tema. Però. Questa è un'altra cosa. Io sto dicendo che in questa roba qui c'è anche molta ingenuità. Se è andata così, come lui racconta, c'è anche molta ingenuità. Cioè, questo è il marito di una persona molto nota, cioè, è un professionista affermato in un ente molto importante come la Ferrovie dello Stato, ha fatto una cazzata. Cioè, c'è modo e modo anche per incontrare no, prostitute online. Grazie Fabio. Vladi, come stai? Eccoci. Bene. Qui. Allora, come al solito... dice la sua in maniera diretta anche sulla vicenda della Mussolini, tra la Mussolini e Vladimir Luxuria c'è un precedente che abbiamo già mandato ieri e che faccio risentire. Era una trasmissione, non so, forse da Vespa? Non so se porta a porta. Porta a porta, eccolo qui. Arriva. Perché si voi da donna e scusa, prego, Mussolini, vi prego. Ma voi non siete stati, non costringete a chiudere lì, non siete stati in grado di dire una cosa fondamentale. Quanti immigrati ogni anno? No, per favore. Se ne prendiamo a. Per favore. Questo è il prossimo governo dopo il culattone di Tremaglia, c'è il frocio di Alessandra Mussolini. Bene, grazie. Scusa, per favore. Meglio fascista che frocio. Allora, Vladimir, puoi ripetere urbi e torbi quello che hai scritto ieri su Facebook, che è stato molto criticato, devo dirti la verità, anche da Parenzo l'ha criticato, io un po' meno. Che cosa hai scritto a proposito della vicenda da Mussolini? Beh, intanto se non avessi detto nulla sarei stata accusata di omissione di opinione, perché se avevo detto qualcosa dovevo dire. Di ipocrisia, dici? Ma sì, perché c'è tutta questa cosa solidarietà, ipocrisia, va bene. Cioè, comunque, tu dici che la solidarietà alla Mussolini che arriva dappertutto è piena di ipocrisia? Ma io ho scritto un tweet in cui ho scritto infierire sul dramma familiare che sta vivendo la Mussolini, però almeno che rifletta sul fatto che prima di accusare gli altri è meglio guardarsi attorno. Questo è stato il mio tweet, che ovviamente ha suscitato i mal di pancia di quelli che comunque per partito preso devono sempre difendere. No, cioè, però, non è che io gioisco della cosa che è successa alla Mussolini. È sembrato un po' di sì, però. No, io non gioisco, non sono una sciacalla, una carogna che gioisce delle sofferenze degli altri. Però di una che ha sempre usato il linguaggio che ha usato, sempre offendendo gli altri, sempre sputando insulti, e chi sputa in cielo in faccia gli arriva, dice un vecchio detto, una che era contro le famiglie composte dallo stesso sesso perché diceva questi poveri bambini che vedranno rotolarsi tra le lenzuola due uomini, quindi facendo la confusione tra omosessualità e pedofilia, beh, scusate, secondo me qualcosa bisogna dire, cioè che almeno rifletta in questo momento di dolore sul fatto che prima di puntare il dito accusatorio sugli altri è meglio guardarsi dentro se stessi. Vladimir, sono due cose molto diverse però, perché qui c'è una vicenda in cui il marito confessa di essere andato con due. Beh, a parte che dice che non sapeva che fossero minorenni, eccetera. Cioè, c'è un dramma familiare in corso. Cosa c'entra con le idee politiche della Mussolini e con le considerazioni della Mussolini contro l'adozione o contro il matrimonio omosessuale, o in quel caso quando ti ha detto meglio frocio che fascista? C'entra. Cioè, meglio fascista che frocio, anzi. Meglio fascista che frocio. Sì. C'entra perché lei ha fondato tutta la sua politica sul fatto che l'unica famiglia tradizionale da difendere è quella composta da un uomo e una donna. Sì. Allora, noi che diciamo che non è famiglia, è un luogo in cui la gente si rispetta, si ama, eccetera, eccetera, abbiamo, diciamo così, ribaltato questa visione. Per questo io ho voluto però, scusa, ricordare questa, la colpa del marito non è che può ricadere su Alessandra Mussolini. Ma infatti io mica ho detto che lei è la colpa è la sua, ho detto che tutti quelli che dicono la famiglia farebbero meglio a guardarsi prima nella propria famiglia, prima di giudicare le famiglie degli altri e di insultare gli altri. Lei che ha sempre usato un linguaggio sempre offensivo, greve. Cioè, se la merita questa cosa che gli è capitata? No, nessuno si merita niente. Sembra che dici questo. ognuno deve prendere le occasioni che ti capitano nella vita per riflettere, perché lei spesso, dicendo quello che ha detto, meglio fascista che frocio e tutte quelle cose che ha detto, io credo che qualche sofferenza in qualcuno l'ha procurata. Cioè ha procurato sofferenza e adesso la sofferenza le ritorna indietro. Io ho detto sputa in faccia e in cielo gli arriva. Io non la vedo come una vendetta. Però sicuramente deve, se non lo sapeva prima, perché io non so chi lo può sapere. Io credo che comunque lei si deve prendere il suo bel periodo di riposo e di riflessione, perché tanto lei questa cosa la supererà, perché non è detto, supera, anzi cavalcherà questa cosa un po' come Hillary Clinton, facendo la vittima, la donna, il marito sporcaccione, la donna vittima, e farà come Hillary Clinton, anzi avrà anche più consenso. Ma no, da un punto dai. Farà una bella trasmissione in cui parlerà di questo e tutti si medesimeranno in questa povera donna. La mia amica Vladi sa perfettamente che la responsabilità penale è personale. Io non ho mai difeso né difendo la Mussolini. Però? Dico semplicemente che su 40 indagati, guarda caso. Vabbè, quello è un altro discorso che ha a che fare con la comunicazione. Anche quando si dice come fa, perché non ha guardato a casa sua, cioè di fronte a una cosa enorme come questa, ma che doveva sapere? Ma se l'avesse saputo prima l'avrebbe lasciato probabilmente. Ecco perché non le si può attribuire colpe in questo caso. Ha colpe politiche per quello che fa, che dice. Vabbè, quello è. No, colpe, dal mio punto di vista, dice delle cose aberranti. Va bene, però devo chiudere. Non credo che sapesse che il marito frequentasse le minorenni, altrimenti non avrebbe neanche proposto la castrazione chimica per i pedofili. Quindi devo chiudere. Magari che potesse tradirla, magari sì. Ciao Vladi, presto. Vi salutiamo e benediciamo da Roma, amatissimi figli. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Venga, che ormai è tutto finito.